Nessun luogo, nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. Buona giornata, gentili ascoltatrici e gentili ascoltatori, ben ritrovati a Nessun Luogo è Lontano. I saluti vi arrivano anche da Margherita Ina, Gianni Rosini e Emanuele Brignoli, che hanno confezionato con me quest'ultima puntata di questa stagione di Nessun Luogo è Lontano. Anche se l'ultima puntata, le coordinate rimangono sempre quelle: 349-238-6666 per i vostri SMS, Twitter, Giampaz, oppure Nessun Luogo 24, Facebook, Nessun Luogo Lontano, trattino, Radio 24. Ne approfitto anche per ricordarvi che sabato 5 settembre alle 20 realizzeremo una puntata speciale di Nessun Luogo Lontano con musica dal vivo, da Expo, dal padiglione Cibus e Italia. Sarà una puntata sperimentale dove esteri e storytelling si incontreranno in maniera, speriamo, virtuosa. Detto ciò, iniziamo ad affrontare il tema di quest'oggi e iniziamo ad affrontarlo ascoltando un suono. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Daria. 2014, Allahu Akbar, Daria. Il suono che avete appena udito è quello dell'esplosione di un barile bomba, uno dei tanti precipitati sulle città siriane negli ultimi mesi, il barrel bomb, altrimenti detto in inglese. Quello siriano e l'utilizzo del barrel bomb, del barile bomba, è uno dei temi di cui ci occupiamo quest'oggi. Il titolo della puntata potrebbe essere La sporca guerra, non che vi siano guerre pulite ovviamente, ma due teatri in particolare, hanno collezionato violazioni dei diritti umani e crimini di guerra a ripetizione. Uno è quello siriano e l'altro è quello yemenita, dove vengono usate le cluster bomb, cioè le bombe a grappolo. Abbiamo due casi specifici, anche due fattispecie giuridiche differenti. Da un lato abbiamo un'arma che di per sé non è vietata, il barile bomba, ma è vietato il suo uso indiscriminato. Dall'altro abbiamo il cluster bomb, vietato da una convenzione internazionale. Capiremo meglio che cosa sono queste armi, perché sono usate, con quali conseguenze in due dei teatri maggiori degli ultimi anni, teatri di guerra ovviamente. Il tutto nasce da un recente report, una denuncia di Human Rights Watch, appunto, che denuncia l'utilizzo di barrel bombs in Siria. Prima però ascoltiamo insieme il quadro legislativo all'interno del quale ci muoveremo. Il diritto internazionale umanitario è l'insieme di quelle norme del diritto internazionale che regolamentano i conflitti armati. Stratificatosi nel corso dei decenni attraverso un continuo aggiornamento dei trattati, si basa sulla prima Convenzione di Ginevra risalente al 1864. Tra i suoi vari ambiti di applicazione bandisce anche l'utilizzo di determinate tipologie di armi. I proiettili esplosivi leggeri o quelli che si espandono dopo essere penetrati all'interno del corpo umano sono state le prime armi dichiarate illegali, proibite a partire dalla seconda metà dell'Ottocento. Le armi chimiche e batteriologiche vengono vietate dal protocollo di Ginevra del 1925, dopo la loro comparsa sui campi di battaglia della Prima Guerra Mondiale. Nel 1980 viene invece siglata una convenzione per la regolamentazione di alcune armi convenzionali, definendo i contesti in cui il loro utilizzo è da considerarsi illegale. Viene pertanto proibito l'uso di mine, trappole esplosive ed armi incendiarie nelle situazioni in cui esista la possibilità che esse colpiscano, anche accidentalmente, obiettivi non esclusivamente militari. Sono inoltre vietati tutti i tipi di laser che abbiano come primo obiettivo quello di causare cecità permanente. In aggiunta, sono proibiti tutti i tipi di arma che feriscono con frammenti non rilevabili ai raggi X. La convenzione più recente risale al 2008, quando è stato dichiarato illegale l'utilizzo delle cosiddette bombe a grappolo. E in questo viaggio attraverso due teatri di guerra e due particolari armi e il loro utilizzo ci accompagna Francesco Vignarca, coordinatore della rete Disarmo. Vignarca, buongiorno, benvenuto a Nessun Luogo Lontano. Buon pomeriggio a tutti voi. Ci accompagnerà lei in questo viaggio perché, come dire, le zone di grigio sono molto ampie, anche dal punto di, punto di vista legislativo, ma ci torneremo più avanti nel proseguo della trasmissione. E intanto iniziamo a mettere i puntini su lei. Che cosa sono le barrel bombs? Abbiamo raggiunto Steve Goose, esperto in armi di Human Rights Watch da Washington DC. Sentite come definisce i barili bomba. Le barrel bombs sono bombe artigianali, non ci sono fabbriche che le producono. Sono contenitori pieni di esplosivo e frammenti di materiale di forma indistinta. Vengono lanciate dal retro degli elicotteri, ma non ha nessun sistema di guida, per cui sono armi che colpiscono in modo del tutto indiscriminato. Sono molto utilizzate in Siria per terrorizzare la popolazione locale. A Steve Goose di Human Rights Watch di Washington abbiamo anche chiesto perché il loro utilizzo si è intensificato, perché sono semplici da produrre, perché sono economiche. Sentite che cosa ha detto. Sì, si dice che siano molto rudimentali. Non viene utilizzato nessun metodo particolare di assemblaggio né alcun tipo di lavorazione industriale. Vengono semplicemente uniti i vari pezzi insieme. L'esercito siriano ne produce pertanto in gran numero. Sono molto economiche da utilizzare perché non hanno nulla di sofisticato ed è proprio questa la ragione per cui sono così utilizzate in Siria. Sono armi convenienti. Rispondono però anche alla politica del governo siriano di colpire e terrorizzare la popolazione civile. Queste bombe piovono dal cielo senza poter avere un obiettivo preciso da colpire. I bersagli non possono essere pianificati. Sono bombe che non sono mai state usate da nessuno, in nessun conflitto. Nel report di Human Rights Watch, ripreso anche da molta della stampa italiana e internazionale, si sottolineava questo paradosso: le barrel bombs uccidono più dell'ISIS. Come a sottolineare anche che, come dire, i chiaroscuri, i distinguo e anche la complessità di certi conflitti meriterebbero ovviamente un'attenzione maggiore, andrebbero raccontati con più respiro e con ampiezza di particolari. Andiamo subito da Francesco Vignarca, prima di ascoltare insieme ancora la voce di Steve Goose. Vignarca, c'è una prima, come dire, zona grigia giuridica, no? Allora, da un lato abbiamo armi che sono assolutamente vietate, altre armi che di per sé non sono vietate, ma il cui utilizzo è vietato in certe condizioni. Questa zona grigia lascia un troppo discrimine, no? Cioè, sì, diciamo che il punto, bisogna capire da dove si arriva. Da tempo, dalle convenzioni di Ginevra in poi, il punto è stato quello di cercare di trovare un modo per poter fare la guerra secondo delle regole, tra virgolette, cavalleresche, e soprattutto delle regole che impedissero di andare ad uccidere soprattutto in maniera indiscriminata i civili. E quindi c'è un pezzo di tutto l'armamentario giuridico internazionale legato a questa prospettiva, cioè a dire, a fare in modo di ottenere una separazione tra la lotta tra due eserciti e invece eventuali impatti sui civili. Il problema vero è che negli ultimi anni sempre di più si è andate a diffondere una guerra che è davvero indiscriminata. Tutte le statistiche ci dicono che ormai la grande maggioranza delle vittime nei conflitti sono proprio i civili, non c'è più la guerra novecentesca, di inizio Novecento, se vogliamo, tra gli eserciti. E quindi a maggior ragione vengono utilizzati quei tipi di armamenti che sono il maggior numero indiscriminati, e non solo indiscriminati dal punto di vista delle uccisioni, ma addirittura anche dei ferimenti. Tutta la polemica che poi ha portato fortunatamente alla messa al bando delle mine antipersona dimostrava, sì, come spesso e volentieri gli eserciti volessero non uccidere ma ferire gli avversari. Perché? Perché la gestione di un ferito dal punto di vista sociale, economico, medico è molto più dispendiosa che il seppellimento di un morto. Sembra cinico, ma era questa l'approccio che veniva fatto. Per cui si è anche cercato, soprattutto negli ultimi anni, di andare non solo a regolamentare, tra virgolette, l'uso di un'arma proprio perché vada a colpire solo gli obiettivi, tra virgolette, militari, cosa, sì, che purtroppo non c'è più, ma a mettere al bando completamente un tipo d'arma perché direttamente legata a un uso indiscriminato, come appunto la mina antipersone o come appunto le cluster bombs. Sì. Il problema è che se si è creato una guerra che è sempre più indiscriminata negli obiettivi, nelle modalità, è chiaro che purtroppo vengono create delle armi o degli ordigni, ancora meglio in questo caso, che rispondono a tale logica, e le barrel bombs sono proprio questo. Sì. Francesco Vignarca, stia con noi, perché adesso sentiamo ancora Steve Goose, il quale, avete sentito, spiegava che le barrel bombs vengono lanciate dal retro degli elicotteri. Allora la mia domanda è stata, questo implica che possono essere utilizzate solamente in contesti particolari, no? Sentite cosa dice. Ci potrebbero essere molti modi per lanciarle. Quello più comune è sganciarle dal retro di un elicottero. Non si possono infatti lanciare da un aereo. Questo però non è un fattore che limita il loro utilizzo. Significa di fatto che non è necessario possedere aerei d'avanguardia per poterle utilizzare. Basta avere dei semplici elicotteri, anche della tipologia adibita al trasporto. Non sono quindi necessari elicotteri militari. Sono sufficienti anche quelli adibiti al trasporto dei militari. Questo di fatto incrementa le possibilità del loro utilizzo, proprio perché si possono lanciare attraverso modalità così semplici. Allora, 349-238-6666 per i vostri commenti e domande, Nessunluogo 24, oppure Jampaz, dove c'è intanto una prima domanda su Twitter: ma se sono armi proibite o vietate, perché vengono prodotte? Bisogna sanzionare chi le produce prima di chi le usa, no? Chiede un ascoltatore. In realtà il barrel bombs, per loro natura, sono ordigni improvvisati, quindi fatti con materiale di recupero. Può essere un barile, una tanica di benzina, quelle di metallo, un fusto d'acciaio riempito di ferraglia varia e petrolio, il quale poi viene fatto detonare appunto senza particolare precisione. Se esistono bombe intelligenti, queste qua sono particolarmente stupide, passatemi il termine. Buongiorno e ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano anche Lorenzo Trombetta, corrispondente per l'ANSA da Beirut, analista anche per l'IMES, autore di un bellissimo libro sulla storia siriana. Lorenzo, buongiorno e ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno a voi. Allora, stiamo analizzando sinteticamente il contesto siriano, ma diciamo in un'ottica di un utilizzo di un'arma di per sé non vietata, ma il cui uso indiscriminato è assolutamente sanzionabile e vietato. Che idea ti sei fatta dell'utilizzo da parte di Assad di questa bomba? E come diceva Steve Goose di Human Rights Watch da Washington, l'obiettivo è creare panico e terrore nella popolazione civile? Questo è uno degli obiettivi. Un altro obiettivo è proprio quello di distruggere alcuni obiettivi, seppur le bombe non siano precise, però per l'intensità con cui vengono lanciate nell'arco anche di 2 giorni in modo intensivo su degli obiettivi su zone urbane o comunque urbanizzate, di fatto hanno anche l'obiettivo di distruggere tutta una serie di aree di città, di luoghi residenziali, quindi di terrorizzare, ma anche di colpire una sorta di rifugio di miliziani che, lo dobbiamo ricordare, non combattono soltanto fuori dalle zone urbane, ma combattono anche all'interno delle zone urbane. In qualche modo colpire la popolazione di quelle aree solidali con la rivolta armata in Siria, dove i miliziani e la popolazione civile sono spesso un'unica entità. Chiarissimo. Lorenzo, sinteticamente, lo stato dell'arte sul fronte siriano, si è letto nei giornali di recenti perdite di terreno da parte del regime di Assad. Tu sei un attento osservatore di quel conflitto e lo hai raccontato. Che cosa prevedi? Non ti dico di usare la sfera di cristallo, per carità, però insomma, visto che si moltiplicano le speculazioni su una possibile partizione della Siria, su una possibile caduta di Assad, dal tuo osservatorio privilegiato e competente. La spartizione territoriale è di fatto già in corso da tempo, sì. Già possiamo dire da un anno è evidente sul terreno che ci sono diverse Sirie, una Siria dello Stato Islamico, una Siria in mano a un governo più o meno autonomo curdo nel nord-est e in alcune zone del nord, una Siria in mano al governo siriano, sostenuto fortemente da Iran e Russia, quindi possiamo anche dire una Siria russo-iraniana, che è la zona costiera, il corridoio di Homs che porta fino a Damasco, e poi delle sacche, nell'ultimo periodo in alcune zone queste sacche si sono allargate, in mano a vari tanti gruppi dell'opposizione sempre più radicalizzati. Tra questi inseriamo anche la Jabhat al-Nusra, che è la sigla, diciamo, l'ala siriana di Al-Qaeda, in sì. alcune zone lo Stato Islamico non si chiama Stato Islamico ma si fa chiamare con altre definizioni per camuffarsi, e questo sì. È il caso per esempio a ridosso del confine provvisorio con Israele, delle alture del Golan, diciamo le aree che viene banalmente chiamata l'opposizione, è un'area frammentata, composta da tantissime fazioni armate, sempre più, come dicevo, radicalizzate. Per rispondere alla domanda, senza usare sì. la sfera di cristallo, la dinamica del conflitto oggi è un avanzamento graduale dello Stato Islamico verso la Siria centrale e in direzione dell'autostrada Damasco-Aleppo, per capirci. La famosa Siria utile che da Damasco a sud arriva fino ad Aleppo, 500 km a nord, quella sembra essere la nuova linea del fronte fra un fronte lealista, dove ci sono anche molti Hezbollah libanesi, e lo Stato Islamico. In mezzo, alcune volte in mezzo, alcune volte al lato, ci sono questi vari gruppi di miliziani, molti anche jihadisti anche loro, che cercano di ritagliarsi un territorio da controllare. Nessuno è in grado di vincere la guerra, nessuno è in grado nemmeno di perderla. I negoziati politici, diplomatici a livello internazionale o regionali sono appunto zero. Quindi una situazione cristallizzata, barrel bombs o no, insomma la situazione per il momento è questa. Grazie mille a Lorenzo Drombetta per questa fotografia così sintetica eppure così efficace, analista per l'IMES, corrispondente per l'ANSA da Beirut, ricordo il suo libro Siria degli Ottomani ad Assad e oltre. Buona giornata Lorenzo e buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro. (349) 238 6666 per i vostri commenti o le vostre domande. Twitter Giampaz, ovvero Nessun Luogo 24, Facebook, la pagina è Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24. In quest'ultimo appuntamento con l'attualità internazionale ci stiamo concentrando su due teatri in particolare e sull'utilizzo di due armi, una vietata da trattati internazionali, l'altra di per sé non vietata, ma se effettuata con un utilizzo indiscriminato rientrerebbe in fattispecie vietate, ed è, come avete sentito anche da Lorenzo Trombetta, il caso dei barili bomba in Siria. Siamo anche con Francesco Vignarca, coordinatore della rete Disarmo, al quale propongo, prima di reintervenire, di andare a sentire ancora Steve Goose di Human Rights Watch, che abbiamo raggiunto nella sede di Washington DC, al quale ho chiesto se alla fine il barrel bomb è un ordigno improvvisato, artigianale, che possiamo costruire abbastanza facilmente con materiale di riciclo. Si possono comparare costi ed effetti di queste bombe con invece dispositivi tradizionali più sofisticati? Sentite. Non si possono definire i costi di una bomba tradizionale, dipendono infatti dal tipo di arma che si considera. Variano a seconda del fatto che abbiano o meno un sistema di guida integrato o altre tecnologie aggiuntive. Ma ci sono due fattori particolarmente spaventosi legati alla natura delle barrel bombs. Il primo è che non hanno alcun sistema di guida, né tantomeno alcun tipo di aerodinamica, cosa che invece le bombe tradizionali possiedono. Colpiscono quindi in maniera del tutto casuale, senza la possibilità di indirizzarle su un obiettivo definito che ci si aspetta essere di tipo militare. Mentre spesso con le barrel bombs non è di tipo militare. Il secondo aspetto è che l'area interessata da questo tipo di esplosione è veramente ampia. Quindi non è possibile circoscrivere gli effetti, anche qualora l'obiettivo colpito sia di tipo militare. Non puoi limitare il danno al tuo obiettivo. La vastità dell'area colpita dai frammenti che la bomba sprigiona nell'esplosione, combinata con l'impossibilità di dirigerle verso un obiettivo, con la loro imprevedibilità, le rendono davvero devastanti. Il che evidentemente è a volte negli obiettivi di chi sgancia quelle bombe. Non sottovaluterei quello che diceva Steve Goose sul fatto di creare terrore e panico nella popolazione. Il terrorismo è un'arma, è una leva formidabile che si ottiene la maggior parte delle volte violando le regole. Fra l'altro la domanda che adesso inizio a porre, perché su questo, come dire, i punti di domanda sono tanti, a Francesco Vignarca, del coordinatore della rete Disarmo, è com'è possibile che, date le convenzioni internazionali che vi sono, al quale però non tutti i paesi aderiscono, qua dobbiamo anche chiarire questo punto, com'è possibile che di fronte a casi comprovati come quello siriano la comunità internazionale si trovi impotente e con le armi spuntate, direi che è il caso di dirlo, per prendere provvedimenti? Ma il punto è proprio nella natura stessa degli ordigni. È molto interessante anche l'altra domanda che avete raggiunto, come si fa, sì, com'è possibile. Ecco, il controllo lo si fa allargando la situazione, cioè non considerando armi solamente le bombe fatte finite. Vi ricordo che qui stiamo parlando di barrel bombs in Siria, ma gli ordigni esplosivi improvvisati, i cosiddetti IED in Afghanistan uccidono e hanno purtroppo ucciso anche soldati italiani da anni, proprio sì, perché è un tipo di approccio completamente nuovo per il tipo di guerra o guerriglia che si fa, e allora bisogna considerare anche in maniera più allargata le situazioni. Magari non c'è chi produce la barrel bomb, ma ci sono tutta una serie di, per esempio gli esplosivi, per esempio tutta una serie di strumentazioni che poi vanno a comporre la barrel bomb stessa. Mi ricordo nel caso in Iraq di esplosivo prodotto in Italia che era stato estratto dalle vecchie mine antipersona che era stato poi utilizzato in Iraq proprio contro i nostri militari. Sì. Quindi se vogliamo controllare questa situazione dobbiamo allargare e non restringere il nostro controllo. Oppure, come ha detto giustamente Steve Goose, considerare che le barrel bombs vengono lanciate da degli elicotteri e quindi ad esempio controllare anche quel tipo di forniture. Anni fa in un incontro col governo a noi venne detto che un embargo europeo verso la Cina non veniva violato dalle nostre vendite di elicotteri alla Cina, perché i diritti umani li violavano coi manganelli. Ecco, forse però trasportare la gente che poi viola i diritti umani o trasportare in questo caso barrel bombs è importante, perché ha degli effetti. Quindi vogliamo bloccare questa situazione, al di là degli interventi sociali, politici, sì, che devono fare, dobbiamo ampliare il controllo non solo sugli armamenti ma anche su tutti quei componenti che possono diventare a loro volta arma. Chiarissimo, bisogna mettere il grand'angolo, poi rimettiamo il teleobiettivo, andiamo a analizzare un'altra situazione. Intanto Francesco Vignarca, stia con noi, ascoltiamo le informazioni finanziarie, poi di nuovo Nessun Luogo Sarà Lontano. Nessun luogo, nessun luogo è lontano. Ben ritrovati, questo è Nessun Luogo è lontano, l'ultima puntata. Tanti messaggi di stima che ringrazio ovviamente, sono arrivati anche in questo mese, non li ho mai letti perché leggo per politica solamente critiche e puntate, però l'ultima puntata mi consentirete invece di ringraziare chi mi ha sostenuto, me e la mia squadra, per questo mese. Comunque, sempre al 349-238-6666 invece arriva una domanda molto interessante, un commento interessante, dice: che senso ha parlare di armi vietate quando esiste la bomba atomica? Così Sergio da Mestre. Io amo ricordare che forse la più grande arma di distruzione di massa non è la bomba atomica, di cui si ricorreva la triste commemorazione su Hiroshima e Nagasaki proprio questo mese, ma è per esempio il Kalashnikov, cioè un fucile d'assalto, la K-47, inventato decine di anni fa e che ancora spara. È facilissimo da usare, facilissimo da contrabbandare. Io ne ho riconosciuti in Africa di fabbricazione cinese o sovietica, che chissà, avevano sparato probabilmente anche in Afghanistan decine di anni prima. Quella diffusione, quell'arma così diffusa, credo 2 milioni di pezzi nel mondo, è veramente l'arma ancora purtroppo di distruzione di massa. Siamo con Francesco Vignarca, coordinatore Rete Disarmo, per parlare piuttosto di due casi specifici: i barrel bombs, i barili bomba usati nel teatro siriano, e le cluster bomb in Yemen. In Yemen ci andremo tra pochissimo. Continuiamo a stare in Siria, lo facciamo con Nadim Uri di Human Rights Watch Libano, al quale ho chiesto chi sta usando le barrel bombs in Siria e contro chi. Sentite. Le barrel bombs vengono lanciate dal cielo e le forze governative siriane sono le uniche che in questo conflitto utilizzano l'aviazione. Sono state usate contro gruppi armati e nelle aree da loro controllate, ma l'impatto maggiore lo hanno avuto sui civili presenti in queste aree, perché queste armi non sono precise. Spesso quando si vede un fronte attivo, il governo siriano usa bombardamenti e non barrel bombs, quindi queste vengono spesso usate lontane dalla prima linea. Vi ricordo 349-238-6666, Jampaz, Nessun Luogo 24, siamo su Twitter per gli ultimi commenti o domande. Sentite che cosa risponde ancora Uri di Human Rights Watch Libano alla mia domanda sul perché il governo siriano usi queste barrel bombs. Perché sono molto economiche. La Siria ha messo in piedi una vera e propria produzione di queste bombe, la cui costruzione è basilare, semplice. Un secondo vantaggio è quello che si possono usare elicotteri da trasporto per sganciarle, e la Siria ha molti elicotteri da trasporto che sono più economici e semplici da mantenere rispetto ai jet o altri aeroplani. Quindi il vantaggio principale è che tu puoi usare questi elicotteri per sganciare le bombe, e questo lo rende un modo più economico ed efficace di uccidere e sferrare attacchi. Assistiamo ad altri tipi di attacchi aerei, ma quelli con barrel bombs sono fortemente utilizzati dall'aviazione siriana. La voce che state ascoltando è quella di Nadim Uri di Human Rights Watch Libano, al quale ho chiesto anche se sia possibile stimare quante volte sono state usate barrel bombs nelle ultime settimane. No, è molto difficile fornire dei numeri precisi, perché adesso le stanno usando in diverse e numerose parti del paese, dal nord al centro, a Damasco, quindi è difficile avere delle statistiche nazionali in Siria. Secondo gruppi siriani locali, sono centinaia le barrel bombs sganciate nei mesi scorsi. E andiamo da Francesco Vignarca, coordinatore Rete Disarmo, al quale che vorrei sollecitare su quell'SMS dell'ascoltatore che diceva: ma ha senso ancora parlare di queste armi quando ci sono armi nucleari in giro per il mondo? Vignarca, lei cosa dice? Dico che sono due facce della stessa medaglia, nel senso che l'arma nucleare da sola oggi ha la possibilità di distruggere gran parte del nostro mondo e più volte se venissero usate tutte. Due anni fa è uscito un report della campagna internazionale di cui facciamo anche noi parte, dimostrando che anche una piccola guerra nucleare, tra virgolette, tra l'India e il Pakistan di 30 ordigni avrebbe provocato una carestia per 2,5 miliardi di persone. Dall'altro lato però invece ci sono quelle che giustamente avete definito anche voi le vere armi di distruzione di massa, che sono le armi leggere, che sono piccole, facilmente contrabbandabili, poco costose, che durano molto. Ecco, ogni anno le armi cosiddette piccole e leggere, quindi fucili, mitragliatori, pistole, fanno circa 500.000 di morti, di cui 300.000 in conflitti, vuol dire per 500.000 di morti un morto al minuto. Per cui entrambe le cose sono da considerare e sono da bloccare. Purtroppo ultimamente, come già dicevo prima, i conflitti di varia natura sono sempre più liquidi e sono sempre più derivanti anche da azioni interne alle città, interne ai civili, come è stato anche detto dagli altri vostri ospiti, per cui sempre più spesso e volentieri sono le armi piccole e leggere oppure le armi improvvisate, tra virgolette, come gli IED e le barrel bombs a farla da padrone, e sono quelle che purtroppo causano un sacco di morti. Sì. Una delle cose ovviamente che saltano più agli occhi è un utilizzo spregiudicato, no? In alcuni casi. Allora ho chiesto a Uri quali reazioni vi possono essere, soprattutto da parte della comunità internazionale, rispetto all'uso di barrel bombs, quella comunità internazionale che potrebbe puntare il dito contro Bashar al-Assad, ma evidentemente per il momento non l'ha fatto, non almeno efficacemente. Sentite cosa dice Uri. Credo che le persone sappiano che Assad usa le barrel bombs. Questo è stato documentato senza alcun dubbio. Ci sono fotografie e immagini di questi elicotteri che volano ad alta quota e sganciano qualcosa dalla loro parte posteriore, 20-30 secondi prima che questi barili colpiscano a terra. Quindi questo è stato provato senza alcun dubbio. Nel febbraio 2014, un anno fa, il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha approvato la risoluzione 2139, che dice chiaramente che tutte le parti devono stoppare attacchi indiscriminati, riferendosi in special modo alle barrel bombs. Russia e Cina hanno accettato questa risoluzione. Sfortunatamente questa risoluzione non ha avuto seguito nella realtà, ma noi stiamo facendo sentire la nostra voce per ripetere che questi attacchi devono essere fermati e che deve essere messo l'embargo sulle armi al governo siriano da parte del Consiglio di sicurezza. Questo embargo dovrebbe riguardare anche ogni pezzo di ricambio per gli elicotteri, così che il governo siriano non possa mantenere i propri elicotteri e continuare a lanciare barrel bombs. Inoltre, credo che dovrebbero essere previste delle sanzioni per la violazione delle leggi internazionali sull'uso delle armi e per i crimini di guerra, così da fermare l'uso delle barrel bombs. E mentre però la parola sanzione, la parola embargo sono così facili da pronunciare, evidentemente la loro applicazione è un po' più difficile. Sentite che cosa dice Uri su questo tema. C'è già un embargo e sanzioni imposte ad ISIS e ad al-Nusra da parte del Consiglio di Sicurezza. Quindi crediamo che dovrebbe esserci un embargo anche per il governo siriano e anche per ogni altro partito e fazione in Siria che commette estese violazioni dei diritti umani. Quindi se ci sono gruppi ribelli che commettono queste violazioni, e molti di questi lo fanno, anche contro di loro deve essere imposto l'embargo. Credo che la priorità per la comunità internazionale sia proteggere i civili in Siria, e l'unico modo è imporre sanzioni e lanciare un chiaro messaggio alle parti coinvolte nel conflitto siriano che non rispettano la Convenzione di Ginevra, che non rispettano le leggi internazionali, dicendo loro che ci saranno delle conseguenze. Se vogliono combattere possono farlo, ma l'importante è tenere i civili lontani da questo e rispettare le basi degli accordi internazionali. Allora, intanto al 349-238-6666 arrivano un sacco di domande molto molto interessanti. C'è chi stima, intanto errore mio evidentemente, 2 milioni no, produzioni Kalashnikov, suggerisce un ascoltatore 100 milioni, stiamo verificando. Un altro ascoltatore dice c'è qualcuno in grado di stimare quante mine antiuomo restano ancora da disinnescare nel mondo. E questo conferma l'interesse degli ascoltatori su questo tema che, direi, dire scottante, rischia di essere un eufemismo irriverente. Voglio cambiare pagina, voglio portarvi in Yemen. Vi dicevo, stiamo analizzando due tipi di armi diverse, due contesti, due teatri di guerra diversi. Andiamo in Yemen, dove vengono utilizzate le cluster bomb, le cosiddette bombe a grappolo. Sentite Donatella Rovera, Senior Crisis Advisor per Amnesty International, che ci spiega che cosa sono, come funzionano e chi le ha usate in Yemen. Tanto per cominciare, le bombe a grappolo sono ormai internazionalmente proibite dal 2008, ci sono più di 100 paesi, insomma la maggioranza dei paesi occidentali hanno firmato la convenzione che proibisce la produzione, la vendita e l'uso di queste bombe. Giustamente perché è stato provato che queste sono armi non soltanto indiscriminate al momento dell'uso, perché è una bomba grande che si apre e che sparge centinaia di piccole bombe su una superficie molto grande, quindi non viene puntata a un obiettivo preciso, però si sparge. E poi c'è un tasso molto alto di queste piccole bombe che sono contenute nella bomba grande, che non esplodono generalmente in impatto e che quindi rimangono sul terreno e che si convertono praticamente in mine antipersonali, perché rimangono inesplose, sono piccole, quindi possono essere e sono sovente poi prese in mano, spesso da bambini, oppure vengono calpestate da persone che passano che non le notano, e quindi recano danni, uccidono e feriscono per tanto tempo dopo che sono state usate. Quindi queste sono le ragioni per cui dal 2008 quest'arma è stata proibita, però viene ancora usata, e abbiamo visto, io ero in Yemen recentemente e le bombe a grappolo erano state usate dalla coalizione dell'Arabia Saudita e gli altri 9 paesi che ne fanno parte. Allora, questa era Donatella Rovera di Human Rights Watch ad aprire il capitolo dedicato allo Yemen, cui sarà dedicata l'ultima pagina in Nessun Luogo Lontano, subito dopo il traffico. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta Nessun luogo è lontano. Ben ritrovati, questa è l'ultima pagina di Nessun Luogo Lontano, in cui andiamo a fotografare un altro caso di scuola tragica e orrorifica, ai noi, è lo Yemen e l'utilizzo delle cluster bomb. Avete sentito Donatella Rovera che ci ha spiegato che cosa sono, come funzionano e chi le ha usate. Resta da capire da dove vengono. Sentite. Quelle che io ho trovato specificamente sul terreno, alcune esplose, altre non esplose, di fabbricazione americana, sono state vendute o regalate dagli Stati Uniti all'Arabia Saudita parecchi anni fa, però questo mostra appunto l'importanza per dei controlli più severi sui trasferimenti di armi, perché possono poi venire usate molto tempo dopo recando danni gravi. Io quelle che ho visto usate in Yemen sono cadute in zone abitate. Ho incontrato un ragazzino di 13 anni che aveva avuto il piede praticamente spappolato perché camminando in un campo pieno di queste bombe, molte non esplose, una è esplosa mentre lui camminava, quindi insomma i danni che possono essere recati da queste bombe sono assolutamente conosciuti, chiari, sono molto pericolose. Questo è il racconto di Donatella Rovera, che è tornata da poco dallo Yemen, Senior Crisis Advisor per Amnesty International. Stiamo analizzando l'utilizzo delle cluster bomb nel teatro yemenita, che ormai soffre di una guerra molto spesso ignorata dai media, che invece ben conosce Laura Silvia Battaglia, giornalista freelance esperta di Yemen, fra le altre cose. Laura Silvia, buongiorno, ben ritrovata a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Allora Laura, ne stiamo analizzando due teatri diversi, due contesti diversi e due armi, l'una vietata, l'altra teoricamente non vietata, ma viene utilizzata in maniera non conforme ai trattati internazionali, e stiamo capendo che l'utilizzo di queste armi ha fondamentalmente un obiettivo, che è quello di terrorizzare la popolazione e praticamente attuare, impattare col maggior numero di danni possibile. Ritrovi questa lettura sul teatro yemenita da parte della coalizione guidata dall'Arabia Saudita? Ci arrivano notizie tremende, i civili coinvolti in maniera massiccia in questi scontri. È questo l'obiettivo, secondo te, della coalizione guidata dall'Arabia Saudita? Anche creare panico e terrore nella popolazione? Direi che il caso delle cluster bombs è abbastanza interessante, diceva prima la Rovera. Io credo non solo sotto questo profilo, bisogna considerare che i teatri sono anche diversi, cioè anche diverso quello che accade a Saba, che è la roccaforte degli Houthi a nord, è diverso quello che accade a Sana'a, è diverso anche quello che accade al sud. Direi che ci sono fondamentalmente due scenari, uno che è quello di, come il caso di Sada, quindi ciò di cui si parlava prima, cioè le cluster bombs che sono state ritrovate sul terreno, ed esattamente sono del Textron System Corporation americano, sì, che hanno un obiettivo abbastanza preciso, cioè quello di ovviamente impattare sul terreno in un'area che considera la roccaforte dei ribelli e poi creare nei campi dove cadono, diciamo, i grappoli e che diventano appunto mine, come diceva bene la Rovera, l'impossibilità da parte della popolazione locale di procedere in attività agricole, di trovare pericoli in ogni passo, e quindi direi che ha anche una funzione specificamente strategica al fine di eliminare in modo indiretto, visto che ancora le truppe sul terreno lì non sono arrivate, più civili possibili. E su altre aree certo influisce molto l'aspetto anche direi emotivo, cioè sappiamo che la coalizione del Golfo molto spesso ha colpito diciamo degli obiettivi militari, molte volte ha colpito anche obiettivi che non dovrebbero essere colpiti, molte volte ha realizzato dei raid aerei senza concretamente lanciare bombe, ma per mantenere alto il livello di ansia. Questa notte, tra l'altro, lo ricordo, su Sana'a sono ripresi questi raid con grande violenza, questo perché è un momento in cui il paese, diciamo, è spaccato a metà, e quindi fino a Taiz ci sono le forze che sostengono, diciamo, il governo che era in carica, e sì, da Taiz a nord invece abbiamo ancora i ribelli Houthi che tengono sul terreno banco, e quindi diciamo ancora il meglio tra virgolette peggio, nel senso del momento, sì, più forte certamente della battaglia arriverà. Certo, e chiaramente i prodomi invece ce li hai descritti bene con questo doppio utilizzo da parte di quest'arma. Io ringrazio Laura Silvia Battaglia, giornalista freelance esperta di Yemen. Buona giornata e buon lavoro, Laura. Grazie a voi, grazie. E siamo quasi in chiusura. Io a questo punto vi propongo una ulteriore riflessione, sempre con Francesco Vignarca, che ringrazio per averci accompagnato in quest'ultimo viaggio di Nessun Luogo Lontano, coordinatore Rete Disarmo. Allora, c'è una convenzione internazionale che vieta l'utilizzo del cluster bomb, ma se i paesi che la usano non aderiscono a quella convenzione internazionale, ecco che il patatrac è fatto. E torniamo alla domanda di prima, qui c'è un serio problema, nel senso che c'è chi controlla i controllori, o per meglio dire, tutto funziona finché io decido che funziona. E non avete strumenti in più per tentare di regolamentare? Alcuni ascoltatori dicevano, ma bisognerebbe sanzionare chi le vende, ad esempio. Un ultimo commento su questa cosa, Vignarca. La questione è complessa . E appunto il caso proprio dello Yemen dimostra come dipende molto dalla politica, no? Come in Siria si diceva, non si riesce a fare un embargo a mantenerlo. Gli Stati Uniti hanno condannato l'uso di cluster bombs in Sud Sudan o in Ucraina o in Siria, ma non lo condannano in Yemen, dove le hanno fornite loro. Quindi è un problema anche di politica. Ovviamente se ci fosse una forza internazionale, delle Nazioni Unite forti a poter fare i controlli e a dare delle sanzioni vere, sarebbe tutto più semplice. Quello che possiamo fare noi come campagne internazionali, da un lato è portare notizie e fare in modo che ci sia una pressione dell'opinione pubblica contro certe decisioni e certe scelte, e poi agire su un'altra leva che è molto importante, ed è una leva per esempio scelta da Campagna Mine, una delle nostre organizzazioni, sul tema dei cluster bombs, quella del disinvestment, cioè di andare follow the money, come si dice, cioè andare a sanzionare dal punto di vista della conoscenza pubblica chi investe, chi finanziariamente investe anche nella costruzione di cluster bombs. L'Italia per esempio fa parte della convenzione, non usa le cluster bombs, non ha ancora distrutto tutte le sue riserve, ma lo farà a breve, però diversi istituti finanziari o comunque agenti finanziari italiani sono coinvolti in qualche modo nella produzione e nel commercio di cluster bombs a livello internazionale. L'idea nostra, l'idea di Campagna Mine è quella, ed è stata già presentata, un disegno di legge per sanzionare chi va a intervenire nel ciclo finanziario della produzione delle cluster bombs. Speriamo che il Parlamento a breve, come dire, raccolga questo assist e completi la decisione dell'Italia, perché un conto è aderire a una convenzione ed è già comunque importante sanzionare a livello normativo una posizione, poi ci vuole quello che in inglese si chiama enforcement, cioè applicazione della stessa. È una sfida molto difficile che stiamo cercando di fare anche con il Trattato internazionale sul commercio di armamenti, che è entrato in vigore lo scorso Natale e che proprio adesso in queste ore ha visto l'avvio di un monitor, cioè di una struttura che dovrebbe monitorare la situazione. È chiaro che non è semplice, ma è chiaro che lo potremo fare, come è stato fatto in passato, per tutti una serie di passi avanti che ci sono, solo se la volontà politica e delle opinioni pubbliche sarà alta. Certo. E quindi è importante che se ne parli, è importante che si capiscano queste situazioni sempre più in un'ottica di non solo indignarsi per una situazione particolare, ma capire come sono i meccanismi e agire di conseguenza. Ecco, e soprattutto suffragare l'indignazione, che è così facile sui social in questi periodi, con dati, fatti e numeri. Abbiamo cercato di farlo in questa puntata in Nessun Luogo Lontano. Grazie a Francesco Vignarca, coordinatore Rete Disarmo. Buona giornata e buon lavoro, Francesco. Grazie a voi. All'ultima puntata c'ho ben un minuto e mezzo per salutare e ringraziare con calma e non di fretta come sempre Filippo Reggi. Via coi titoli di coda. E quindi è tutto per oggi, anche per questa stagione di Nessun Luogo Lontano. Grazie a Margherita Ina, Gianni Rosini, Emanuele Brignoli, che hanno percorso con me questo viaggio di 5 settimane. Grazie a voi che siete stati all'ascolto. Vi ricordo che vi aspetto sabato sera, il 5 settembre, alle ore 20, incollate l'orecchio alla radio, puntata speciale di Nessun Luogo Lontano. Si incontreranno storytelling ed esteri. E se poi volete vedermi di persona, sarò al padiglione Cibus e Italia, appunto, di Expo, in attesa di quell'incontro, spero virtuoso, tra storytelling, tra storie piccole, locali e l'analisi geopolitica. Io intanto spengo il microfono, riprendo lo zaino e vi saluto ricordandovi che Nessun Luogo è Lontano.